Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. O profano, sei tu pronto a morire per la massoneria, per i tuoi fratelli, per il grande incognito? Se è proprio necessario, per il grande incognito. Sì, qua. Dove? Qua. Ma che roba è? Amaro Montenegro. Bevi, te l'ordino! Sì, sì. È buono. Dai, il profano ha superato brillantemente la prova della morte. Adesso prostrati! Ci sono tante maniere per nascondere l'indicibile. Una delle tante può essere quella di divulgarlo con i massimi sistemi, anche attraverso la satira, l'irrisione. Questo è un passaggio fondamentale del film di Alberto Sordi, Il borghese piccolo piccolo. Il borghese tartassato, figlio di nessuno, capisce che esiste una via di accesso alla propria emancipazione su un piano banalissimo, trovare lavoro a un figlio, iscrivendosi alla massoneria. Il suo capufficio forforoso lo inizia in una loggia massonica e c'è la riproduzione di un reale rituale di iniziazione massonica, però in chiave ironica, in chiave grottesca. La prova del veleno è fatta con l'amaro Montenegro. Tutti verrebbe di sorridere e dire: vedi quanta fantasia popolare attorno a questa sorta di eterno disegno che popola molte volte in varie epoche le coscienze, che esista una grande rete sotterranea di potere. Esiste anche una maniera in realtà per nascondere ciò che non si può dire, e a volte quando escono delle fulminazioni che appaiono sorprendenti, straordinarie, persino esageratamente onnicomprensive di segreti che nessuno, sembra singolare, abbia mai voluto svelare, ancora una volta l'atteggiamento è quello di prenderla a ridere. Questa mattina non voglio prendere a ridere, ma voglio per quanto possibile fare domande per me interessanti e serie a un personaggio che sta emergendo in questi giorni nei media, che oggi presenterà il suo libro a Roma. Il libro è Massoni, società a responsabilità illimitata, la scoperta delle Urloge, edizioni Chiare Lettere. L'autore di questo libro è Gioele Magaldi. Gioele Magaldi, buongiorno. Buongiorno a lei. Gioele Magaldi è classificato dai media, almeno nazionali, come un personaggio singolare. Qualcuno lo chiama per prenderlo in giro, per fargli dire cose sorprendenti, come se fosse un personaggio. Altri cominciano a scrivere articoli su di lui dicendo: ma ci sembra singolare che esista una lista così dettagliata come in questo libro di queste logge segrete, che sarebbero delle super logge, delle logge che non appartengono nemmeno a circuiti che ormai sono palesi della massoneria, che manovrerebbero da quando c'è memoria della nostra moderna civiltà fino agli eventi degli ultimi istanti tutti i meccanismi più nascosti e più segreti. A lei non è stata mai fatta probabilmente la domanda, ma nessuno ha mai protestato, o l'è stata fatta molte volte, nessuno mi ha detto: Magaldi cosa scrivi? Perché nell'ultima lista di eccellenti partecipanti a queste logge vedo i personaggi più in vista nel momento, da Mario Draghi, governatore della BCE, fino agli ultimi tre presidenti del Consiglio, Monti, Letta e Renzi non so se è ancora dentro, aspirante massone, ma poi tutta una serie di personaggi che vanno da papi, da uomini della politica, della finanza, dell'industria, dello spettacolo. Non viene il sospetto che se tutti sono massoni, nessuno è massone? Non può essere questa una facile maniera di scardinare alla base il processo da lei iniziato con questo libro? Allora, guardi, intanto bisogna mettere a fuoco una cosa: non è che le Urlogis sono delle superlogge costitutivamente su base sovranazionale che nascono alla metà dell'Ottocento, si sviluppano soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento e diventano gradualmente egemoni. In realtà, cosa che verrà spiegata in questa trilogia, perché Massoni, Società Responsabilità Illimitata è una trilogia, questo che presentiamo oggi a Roma è il primo volume. Sono già 600 pagine, quindi è un volume corposo. Sì, Questo è un volume corposo che si concentra soprattutto sugli ultimi 70 anni di storia, mentre i successivi due volumi faranno avanti e indietro nel tempo, collegando in modo, vorrei dire, serio e rigoroso eventi, circostanze e interpretazioni storiche. Quello che però volevo dire è che in realtà c'è un malinteso di fondo che è alimentato spesso anche dalla reticenza degli addetti ai lavori del mondo della massoneria e anche da una certa ignoranza proprio sul piano banalmente storiografico degli operatori mediatici. Cioè, non è che le Urlogis in quanto tali siano appunto una sorta di cupola che da più secoli governa ogni aspetto del mondo. C'è un altro discorso da fare, cioè che la genesi del mondo moderno e contemporaneo, sin dalla fine del Seicento, poi in tutto il Settecento, che è un secolo di preparazione, per poi arrivare ai fondamentali secoli XIX e XX, insomma, la genesi del mondo moderno e contemporaneo ha una matrice massonica, direi abbastanza scoperta, e riguarda i circuiti ordinari della massoneria, cioè quelli delle gran logge o grandi orienti su base nazionale, con le loro logge all'obbedienza su territori nazionali, che hanno, che naturalmente costituiscono nel complesso un network internazionale. Questo però, scusi, Magaldi, questo è sempre stato detto. No, ma ci tenevo a dire questo, che invece... È roba già detta e discussa, la rivoluzione francese, prima guerra mondiale, c'è sempre qualcuno che l'ha detto. Secondo me è stata detta in modo poco preciso, anche sul piano storiografico, socioantropologico, filologico. Non la voglio interrompere, abbiamo poco tempo. Sì, questa è la parte storica. Io vorrei arrivare più all'attualità, che la cosa in questo momento. Ma ci stavo arrivando. L'elemento invece sinora del tutto occultato, ma occultato non agli addetti ai lavori del potere, si badi bene. Cioè, esiste una pletora di giornalisti, politici, diplomatici, militari, di persone che sanno e che magari in qualche occasione si lasciano anche sfuggire quello che sanno, ecco, cioè che dalla metà dell'Ottocento l'egemonia di questo mondo costruito dalla massoneria, questo mondo fondato su società aperte, su stato di diritto, su istituzioni parlamentarizzate, sulla libertà di espressione, di critica, cioè non dobbiamo mai dimenticare di che cosa stiamo parlando. Però è sempre più palese, non è che si nascondono più i massoni, lo dicono. Dico appunto, questo mondo così come lo conosciamo, a partire da 150 anni a questa parte, ha visto passare l'egemonia dalle gran logge ordinarie e tradizionali a questi circuiti di Urlogis, che hanno il vantaggio di affiliare membri di circuiti tradizionali, mescolandoli con altri personaggi del jet set globale, e quindi costituendo su base sovranazionale, costitutivamente sovranazionale, delle elite. Però, mi scusi, nessuno ancora ha mai scritto, la prima volta che lo vedo scritto, che un personaggio che è nelle più intoccabili iconografie mondiali come Papa Giovanni XXIII sia massone, iniziato in Turchia negli anni 40. Sembra una boutade, il Papa buono, Papa massone. No, guardi, no, lei poi avrà magari... Sì, però ci dica due cose su questo. Sì, glielo dico, senza, lei avrà l'occasione di leggere il libro e vedrà come... In realtà il segreto è solo apparente, in ambienti ecclesiastici, vaticani, la cosa è ben nota. Però nessuno l'ha mai scritto. Certo, ma noi possiamo pensare davvero che l'analisi sul mondo, sull'attualità più stringente sia quella dei comunicati stampa. Ecco, ma lei ha dei documenti, scusi, però la porto sul tema. Sì. La critica che ne è fatta al suo libro è quella che dice delle cose enormi, però al momento che deve portare i documenti dice: farò una conferenza stampa e vi produrrò i documenti. Su Papa Giovanni Massone esiste una documentazione che in Turchia negli anni 40 diventò massone, ogni suo atto è stato supportato da poteri sovranazionali, quindi il disgelo del momento della massima tensione fra grandi blocchi, l'apertura col Concilio Vaticano II, lo stesso discorso della Luna avrebbe una chiave esoterica in chiave rosacruciana o qualcosa senza del genere. Senza dubbio, sì. Questo è vero. Sì, no, ma io ho consultato, diciamo, in modo minuzioso, insieme a un'equipe di altri fratelli, documenti della Urlogis Gedullah, dove per la prima volta... Quella turca. Sì, non è turca, è un orologio sovranazionale. Ricordi, le orologi hanno sempre base sovranazionale. Hanno sempre, non hanno confini nazionali, ecco, sì. Esatto, anche se hanno poi un radicamento più o meno continentale o intercontinentale, ma insomma non sono mai confinate a un singolo territorio nazionale. E l'orologio Gedulla opera appunto tra Medio Oriente, insomma Asia centro-meridionale. E lo scopo qual era? Diciamo di dare una svolta radicale a, diciamo, alla dottrina della Chiesa, a muoversi... No. Guardi, ecco, io intanto rifiuto nel libro, che poi appunto spero che i commenti più sensati verranno sicuramente dopo che sarà stato pubblicato. Sì, io faccio delle domande sull'eco iniziale. No, lo dico per lei, lo dico in generale, no? Perché vedo molti che aderiscono entusiasticamente oppure altrettanto aprioristicamente confutano o esprimono pensieri in libertà. Prima si legga, si studi e dopo si giudicherà. Detto questo, quando Roncalli viene iniziato la prima volta ad Istanbul, avviene questo per sue necessità spirituali e intellettuali. Successivamente avrà una successiva iniziazione all'Orologio Montesquieu a Parigi, e soltanto molto più tardi verrà costruito, come viene spiegato nel libro, da un circuito di orologi sovranazionali, un'idea rivoluzionaria, cioè fare in modo che contemporaneamente diventasse, diciamo, rappresentante del potere cosiddetto imperiale, potremmo dire quello di Presidente degli Stati Uniti, un cattolico non massone, John Fitzgerald Kennedy, e diventasse Papa un massone per la prima volta nella storia. Entrambi dal nome Giovanni, oltretutto, cioè naturalmente John Fitzgerald Kennedy ce l'aveva di nascita, Angelo Roncalli lo sceglie significativamente, va di bene che il Vangelo di Giovanni è quello su cui c'è più margine nell'area occidentale, cioè Aprono i lavori di loggia. Ecco, quindi San Giovanni è il patrono della massoneria, ed è nel giorno di San Giovanni che nel 1717 viene rifondata la massoneria. Magari devo interrompere solo un attimo per dare le informazioni, prego, del traffico. Prego. Fra un secondo ci sentiamo, però vorrei che lei mi producesse, almeno come impegno. Questa è una bella interpretazione, come tutte le profezie, uno può trovare i punti di raccordo. Se lei poi di questo realmente un domani che qualcuno gli chiedesse ragione ha delle documentazioni reali per dire, vedi, questo è il documento in cui il Papa fu iniziato alla massoneria, questo è il rapporto che il Papa ha fatto ai suoi referenti, ammesso che ne abbia avuto in quanto Papa, per seguire quello che è un disegno sovranazionale di loggia internazionale che lui doveva portare a termine. Melog, Cronache Meridiane. La massoneria, la madre di tutte le società segrete. Forse è l'organizzazione più sospettata e perseguitata di tutti i tempi. E nonostante ciò, sono pochissime, davvero poche, le persone al mondo che veramente sanno che cosa sia. Esiste, come i suoi critici affermano, questo potere occulto dietro i più importanti eventi mondiali? Oppure si tratta di un circolo sociale un po' decadente dai rituali infantili? Ma com'è nata questo? Questo è un documentario di History Channel per farvi capire che se ne parla molto di massoneria, ma per la prima volta qualcuno fa un elenco di nomi e di cognomi di persone apparentemente insospettabili. Mi fa venire in mente la memoria personale quando qualche anno fa, ma parlo di qualche decennio fa, in una città come Perugia, città simbolicamente molto importante da questo punto di vista, fu pubblicato da un giornale l'elenco dei massoni perugini. Erano tutti dirigenti del locale PC, fortissimo. I perugini rimasero di sasso, com'è possibile? Mai avremmo pensato una tale commistione, ma nel libro che sarà presentato questa sera a Fandango Incontro a Roma, che è il libro di Gioele Magaldi, Massoni, Società a responsabilità illimitata, edizione Chiare Lettere, ci sono nomi di personaggi che uno non penserebbe assimilabili con un discorso tradizionale della massoneria. Abbiamo parlato finora di Papa Giovanni, ma ad esempio Massimo D'Alema. Gioele Magaldi abita anche vicino da quelle parti, passa al Tevere. Come entra nella politica italiana degli ultimi anni, a parte gli ultimi tre governi che lei definisce come tre commissari dissimulati di queste superlogge, l'intervento alla massoneria nella politica degli ultimi anni? La massoneria di questo tipo, naturalmente, non quella palese, quella che non nega ogni sua origine, ogni suo affiliato. Sì, ci tenevo prima a darle riscontro a quello che lei diceva, sì, chiudendo. Ecco, allora, io avevo due scelte, come ho spiegato nell'intervista di stamane al Fatto Quotidiano. Avevo due scelte nel trattare questo enorme materiale, migliaia di pagine, migliaia di verbali, documenti, tavole architettoniche che sono degli scritti massonici, diplomi, brevetti. Potevo curare una raccolta antologica di migliaia di pagine, oppure potevamo, perché è un lavoro corale, collettivo, da me supervisionato, scrivere sulla base naturalmente anche di un confronto, cioè gettare il sasso e vedere le reazioni. No, fare una ricostruzione degli eventi di cui la massoneria è stata protagonista, basandoci su un confronto, una comparazione con questi documenti inaccessibili ad occhi profani e le strumentazioni classiche della storiografia. Ma lei come ci è arrivato, Magaldi? Ci sono arrivato perché io nel 2010, io ho una storia di massoneria lunga, nonostante l'età relativamente giovane, nel Grande Oriente d'Italia. Dopodiché sono, diciamo, uscito dal Grande Oriente d'Italia, anche se dentro rimangono molti miei amici e sodali. Lei ha fondato una sua loggia personale? Ho fondato un'altra cosa, un movimento massonico d'opinione che è parte del network massonico progressista, si chiama appunto Grande Oriente Democratico. Ma ha un riconoscimento ufficiale nelle altre logge oppure è sua? Guardi, il problema di riconoscimenti magari lo affrontiamo dopo. Vabbè, in un'altra sede, perché è un problema complesso. Mi rendo conto che è complicato. Nel 2010 sono stato anche affiliato alla Thomas Paine, che è la più antica delle orologis, fondata nel 1849-50 da personaggi del calibro di John Stuart Mill, Alexander Herz, Giuseppe Mazzini, Garibaldi, eccetera. E insomma ho avuto accesso a questa, stiamo parlando della orologio progressista più prestigiosa, e ho avuto modo, tramite contatti vari, di accedere sia agli archivi riservati dei circuiti delle orologi progressiste, sia anche delle orologi cosiddette reazionarie o conservatrici. Di qui nasce l'opportunità di fare questo lavoro, che è un lavoro molto serio e rigoroso. Ma come la considerano? Un traditore, visto che ha portato alla luce i documenti segreti? No, guardi, ecco, chi leggerà il libro e arriverà fino al nono capitolo, mi dicono quelli che l'hanno detto finora che è molto scorrevole. Io ho il PDF davanti, sto scorrendolo nella velocità possibile, ecco, mentre parlo. Ecco, però no, l'ho avuto stamattina. Si prenda tutto il suo tempo, magari insomma le faremo avere però anche la copia cartacea. Vengo questa sera, la vedrò senz'altro, figuriamoci. Ecco, ma voglio dire, si scopre che in realtà c'è, come è sempre stato nella storia della massoneria, che non è un potere unico, non è una cupola unica, noi confutiamo punto per punto anche le ricostruzioni. Lei diluisce sempre, scusi, magari l'ho detto. Secondo lei è un personaggio... Le ricostruzioni dei complottisti, no? No, ma lo voglio spiegare questo, perché è un punto fondamentale, cioè la reductio ad unum dei complottisti non è quello che lei troverà nel libro. Quindi, questo è vero. L'ambiente massonico, perché è ridotto a un numero infinito, tutti ci sono... No, non è vero, ci sono degli errori. Io vedo, in questi giorni mi è stato detto che sono affiliati tutti i Kennedy. No, i Kennedy non sono mai stati affiliati alla massoneria, sono entrati. Ma D'Alema c'era, ad esempio. Sì, ma D'Alema, mi parla di un personaggio ormai molto ai margini. Chiaro. Anche delle dinamiche del potere, francamente, insomma, mi concentrerei su altro, non su questo. E mi dica allora il personaggio più in vista in questo momento, a parte Draghi, che abbiamo detto che fa parte di queste logge. Più importante. Sì, ma ecco, più che l'appello dei nomi, forse sarebbe il caso di chiarirci che cosa sta accadendo in Italia e in Europa. No, lei prima ha fatto un'allusione al discorso su quello che è accaduto in Italia dal 2011 ad oggi. I tre che ultimi presidenti del Consiglio. Ecco, allora, quello che il lettore troverà nel libro è anche un qualcosa che forse di cui i media avrebbero bisogno, cioè iniziare a pensare che forse il caso esiste, no? Cioè, questa idea che tutto accada per una ragione è forse metafisica, ma anche l'idea che tutto accada a caso è altrettanto inconsistente. Ci sono dei progetti umani che non sono per forza dei complotti. Allora, la crisi politico-economica che senza soluzioni di continuità dal 2007-2008 ad oggi no, devasta le vite di parecchie popolazioni europee e non soltanto. È frutto del caso, dell'insipienza di illustri statisti o sedicenti tali economisti, oppure c'è un progetto? Ma questo già lo dicono molti parlamentari grillini, lo dicono tutti i complottisti, questo già hai peccato detto. Peccato che lo dicono, peccato che lo dicano a vanvera e spesso. E lei, diciamo, ha dato corpo, ha dato documentazione su quelle che possono essere delle voci di complottismo. Leggeremo con più attenzione il suo libro, che abbiamo avuto da pochi minuti, e verremo a sentirla questa sera, quindi capiremo poi di tutto quello che ha detto e accennato quanto concretamente abbia modo di avere una sua corrispondenza e documentazione nel mondo reale. Grazie, in bocca al lupo.